In primis le ragioni partono dai disagi specifici delle nostre strutture scolastiche, dai problemi infrastrutturali alle problematiche di gestione Covid, ma le motivazioni per cui rivendichiamo la nostra occupazione è per solidarietà agli altri istituti, perché comunque queste problematiche non le abbiamo solo noi, ma le hanno tutte le scuole d'Italia. E innanzitutto una cosa che vogliamo sottolineare è la nostra vicinanza a Lorenzo, la vittima dell'alternanza scuola-lavoro. Partendo dai problemi infrastrutturali, posso dirvi che noi abbiamo un impianto molto vecchio nella struttura che si rompe spessissimo e comunque non permette un riscaldamento adeguato all'interno della struttura. Sembra che siano partiti dei lavori e perciò, per dare comunque credibilità alla dirigente, abbiamo chiesto trasparenza su questi progetti e su questi lavori di manutenzione. Altre problematiche le troviamo comunque nell'organizzazione interna, soprattutto perché nessuno ci lascia la possibilità di dialogo, nessuno ci ascolta e la preside è sempre sulla difensiva e non ci lascia mai spazio di manovra, tra virgolette. Abbiamo chiesto la settimana autogestita, abbiamo chiesto di fare assemblee in dei cinema per poter comunque ritrovare dei momenti di socialità, ma per lei è no a prescindere. Poi una cosa che abbiamo portato in campo è soprattutto la problematica della maturità, che è sorta dagli articoli degli ultimi periodi in cui verrà reinserita la seconda prova e gli iscritti, senza tener conto comunque delle problematiche pedagogiche e psicologiche riscontrate negli ultimi 2 anni di pandemia. Perciò richiediamo che vengano reintegrate le tesine e che non venga reinserito la normalità dell'esame di Stato così di botto, ma che ci venga permesso a noi studenti di metabolizzare questa situazione pandemica. Altre motivazioni che abbiamo inserito si rifanno al supporto psicologico interno alla scuola, perché purtroppo abbiamo semplicemente una docente interna alla struttura che fa da psicologa a 900 studenti e ci rendiamo conto, anche solo a dirlo, che a livello di numeri non è abbastanza. Per quanto riguarda i problemi causati, insomma, dal Covid, che tipo di problemi riscontrate? Assolutamente la gestione del tracciamento non è assolutamente funzionale. Abbiamo una referente Covid che è disponibile solamente via mail per 1480 studenti, quindi ci rendiamo conto che è disumano per una persona gestire così tante segnalazioni e soprattutto hanno degli orari abbastanza limitati che non vanno nemmeno nel weekend, quindi se un ragazzo risulta positivo nel weekend e vuole avvertire la scuola, si dovrà fare qualche giorno a casa in assenza non giustificata perché la referente non ha modo di rispondere. Noi non abbiamo chissà quanti spazi, Laura Bassi ha sempre più studenti, ha sempre più sezioni, ha sempre più classi e noi abbiamo sempre meno spazi. Quindi, come è sorto anche dagli altri istituti, gli spazi non sono adeguati, non è assicurato il rientro in sicurezza, non c'è distanza, non ci vengono fornite nemmeno le mascherine, la turnazione per entrare non è controllata, c'è gente che comunque dovrebbe entrare alle 8 e arriva comunque alle 7:30, quindi alla fine facciamo assembramento sotto al portico, perché gli autobus sono quelli. E una cosa che vorremmo chiedere è poter parlare con la città metropolitana, che non ha assolutamente fatto nulla per i trasporti. Poi c'è una questione anche più generale che riguarda anche le risorse del PNRR e del modello di scuola che, insomma, prospettano per voi. Certo, la critica che comunque abbiamo portato avanti per quanto riguarda le riforme del PNRR è stata soprattutto condivisa dagli studenti sulla trasparenza dei fondi che verranno forniti da questo piano. Quindi vorremmo avere potere decisionale in un qualche modo su come vengono gestiti su questi fondi e appunto per migliorare quello che come vediamo noi la nostra istruzione, la nostra educazione e non come la vedono loro. E infatti il messaggio che vogliamo mandare soprattutto con questa occupazione è ribadire che la scuola è nostra e la scuola è grazie agli studenti. Se non ci sono gli studenti la scuola non esiste. Voi fino a quando andrete avanti? Avete già un'idea? Abbiamo organizzato le giornate con varie assemblee, lezioni, comunque progetti di attualità per coinvolgere gli studenti, per renderli consapevoli, responsabili, perché abbiamo capito che lo strumento dell'occupazione è molto più abile, tra virgolette, rispetto a uno sciopero o una manifestazione in cui magari lo studente sceglie di non partecipare volontariamente.